Eccoci a Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, giovedì 21 aprile del 2016. Ci ascoltate in diretta su queste frequenze oppure in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. Per quanto riguarda le informazioni, trovate tutto sull'home page, sulla colonna centrale alla voce trasmissioni Visionari, anche sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info e noi si va a cominciare. Eccoci in collegamento con Nene Grignaffini, co-regista del documentario Ritorno a Spoon River, che è in tour in Italia. Nene, ben ritrovata su queste frequenze. Grazie Federico, ciao, buongiorno a tutti. Come va? Siamo stanchi ma felici. Allora, arriveremo chiaramente anche alla parte del tour, però cominciamo anche dalle origini di questo lavoro. Si tratta dell'antologia di Spoon River, Edgar Lee Master, che compie un importante anniversario. Compleanno, esatto. Certo. Allora, dici un po'. Allora, io e Francesco Conversano, che insieme a me ha ideato e diretto questo, poi magari capiamo se definirlo documentario, film o che cosa, non lo sappiamo bene neanche noi, appunto dal momento che questa antologia ha segnato in qualche modo la nostra crescita, diciamo, da adolescenti ad adulti. È stato un libro che abbiamo molto amato, letto, riletto, ripreso, abbandonato, insomma è sempre stato in circolazione nelle nostre case. Ha attraversato anche un po' le generazioni. Direi che non solo la mia e quella di Francesco, ma di più di una generazione. Sì, sì. E soprattutto crediamo che ancora oggi, pur essendo stato scritto 100 anni fa, perché è uscito in America nell'aprile del 1915, ci sembra che i contenuti di queste poesie, che poi sono epitaffi, abbiano un significato e un valore molto forte ancora oggi. Sì. E quindi ci siamo detti, ma perché non facciamo un omaggio ad Edgar Lee Master? E abbiamo deciso, e siamo riusciti per fortuna in questa impresa abbastanza difficile peraltro, perché come Movie abbiamo trovato un coproduttore che ha creduto molto in questo progetto, cioè Rai Cinema. Quindi siamo partiti alla volta dell'Illinois, dopo una serie di contatti via mail con i sindaci di due piccolissime comunità che vivono vicino allo Spoon River, al fiume, che si chiamano Petersburg e Lewistown, e sono una la cittadina in cui lui è nato e l'altra in cui è vissuto e soprattutto è sepolto nel famoso cimitero La Collina, The Hill. E quello che ci piaceva fare non era né un'indagine, né un'inchiesta, né chissà cos'altro, ci piaceva l'idea di rileggere e di capire che senso avesse oggi rileggere dopo 100 anni quegli epitaffi, e abbiamo deciso di farlo con gli abitanti di oggi di queste due piccole comunità. Ed è stata una, direi, un'avventura molto, molto anche divertente, perché quando siamo arrivati, questa piccolissima troupe di italiani in Illinois, siamo stati ricevuti nei due consigli comunali di queste due cittadine, e noi abbiamo spiegato qual era il progetto che volevamo sviluppare. Si sono appassionati, ci hanno molto amato, devo dire, e continuavano a stupirsi ogni giorno del perché degli italiani arrivassero fino là per far leggere degli epitaffi scritti 100 anni prima. Secondo me alla fine delle riprese lo hanno capito anche loro, no? Devo dire, c'è stato davvero molto entusiasmo e molta partecipazione, e la cosa straordinaria che ci è capitata durante appunto le riprese è che abbiamo trovato là degli attori / lettori / interpreti, non so neanche più come chiamarli, assolutamente straordinari, naturali. Era come se avessero letto da sempre l'antologia. Parentesi, molti di loro neanche sapevano che Edgar Lee Master avesse mai scritto l'antologia di Spoon River, ma in realtà insomma sono stati degli interpreti assolutamente eccezionali. Normali cittadini, tra l'altro. Assolutamente, i cittadini di oggi di queste due piccole città. Sì, sì. Scelti a volte per contrapposizione con il personaggio a cui Edgar Lee Master aveva dedicato l'epitaffio, altre volte proprio perché simili, o per affinità, diciamo, professionali o caratteriali. Quindi insomma c'è un bel mix tra i cittadini di 100 anni fa e quelli di oggi. Ci sembra che ci sia stato un buon amalgama tra le due generazioni, sì, diciamo. Sì, sì. Aggiungo che in Italia, per aspettare la traduzione appunto in italiano, abbiamo dovuto aspettare il 1943, se esatto, non sbaglio. Sì, abbiamo aspettato il 43, quando Pavese, di ritorno da un suo viaggio negli Stati Uniti, portò a una giovanissima Fernanda Pivano, sua allieva, questo libro pubblicato appunto in America. E lui disse a Fernanda: leggilo e dimmi cosa ne pensi. Lei, che era un'accanita lettrice e che amava tutto quello già allora che era americano, non si è limitata a leggerlo, ma ha cominciato a tradurlo, un po' per gioco, un po' per scherzo. Quando lo finì, chiamò Pavese e lui restò esterrefatto dalla traduzione di come questa giovanissima sua studentessa fosse riuscita così in profondità ad entrare nel sentimento e nel senso di questo poeta, e quindi convinse poi l'editore a pubblicare l'antologia. Sì, sì. Dal punto di vista cinematografico, due elementi molto importanti: la musica ma soprattutto una fotografia luminosa, nitida e contrastata. Sì, intanto sulla musica abbiamo scelto di lavorare con degli amici musicisti con cui abbiamo già fatto altri documentari appunto nella lunga nostra ormai carriera professionale, di far fare delle musiche appunto a dei musicisti che in qualche modo riprendessero lo spirito dell'America di quegli anni, ovviamente con una base di blues, un sound che secondo noi dà un grande risalto anche al racconto che facciamo di quella provincia, perché per noi Spoon River, o meglio ritorno a Spoon River, è ancora una volta un, per fortuna, viaggio nella provincia americana, che è una provincia che io e Francesco amiamo da sempre e che abbiamo raccontato in tanti altri nostri documentari. Quindi questa provincia solitaria, dove non succede nulla, vuota, in realtà ricca di persone meravigliose, con una vita che però avviene lì, cioè non si spostano mai da lì, stanno sempre lì. Pochissimi dei nostri personaggi, in una breve scheda che noi presentiamo all'inizio appunto di ogni lettura per spiegare allo spettatore chi è la persona che sta leggendo oggi l'epitaffio, tranne pochissimi che si sono mossi per lavoro nell'America, tutti gli altri sono stranamente stanziali, ma là vivono gli agricoltori e quindi in quanto tali stanno lì da sempre e, come dire, svolgono questo lavoro da più di una generazione. Quindi stranamente è quella parte di popolazione americana che, diversamente dalle altre, non si sposta e non trasloca ogni anno o ogni 2 o 3 anni, insomma. Sì, sì, sì. Quindi dicevamo le musiche, e poi la scelta del bianco e nero, perché ci piaceva e ci sembrava una scelta forte e coraggiosa quella di poter raccontare questo film con un bianco e nero contrastato ma nitido, come hai detto tu, perché comunque il racconto avviene non solo in un cimitero, ma la cosa che ci tengo a dire è che ogni personaggio è stato ambientato in un luogo che è il proprio luogo, sì, o la casa, sì, dove ha vissuto e prima di lui hanno vissuto i suoi parenti, eccetera, oppure nel luogo del lavoro. E quindi abbiamo ogni volta creato un set in cui abbiamo avuto carta bianca, carta libera da ognuno di loro, ma abbiamo ricreato un'atmosfera che non è però finta, perché è proprio il luogo della propria vita, con gli oggetti ai quali abbiamo dato molto risalto, perché ci tenevamo molto a far vedere come quegli oggetti fanno parte di un racconto di una vita. Sono gli oggetti della madre, del padre, dei nonni, sono gli oggetti che loro hanno ancora in casa oggi, quindi, come dire, ci sembrava una scelta di rappresentazione non solo estetica ma anche di contenuto, dare questa forza, sì, ai dettagli, ai particolari delle loro case, delle loro vite. Sì, sì. Nene, arriviamo al tour, come sì. lo state vivendo e organizzando? Questa è una bella domanda, perché non abbiamo un distributore, non lo so perché, forse non l'abbiamo cercato oppure l'abbiamo cercato e non l'abbiamo trovato, e quindi come movie abbiamo cominciato a prendere contatti con i gestori delle sale cinematografiche, partendo ovviamente dalla Fice e per poi arrivare anche ad altri che sono privati, e devo dire che le proiezioni stanno andando molto bene. Ovviamente siamo partiti da Bologna, che è la nostra città, e poi siamo andati a Firenze, poi siamo andati in Puglia, poi siamo andati in Basilicata, a Modena, a Reggio, all'Anteo a Milano, al Farnese a Roma, poi ci sarà Genova, poi ci sarà La Spezia, poi ci sarà Parma, e ce la stiamo costruendo un po' così, devo dire, un po' per volta. Ma d'altra parte il film è uscito ed è stato presentato per la prima volta a novembre al Torino Film Festival, e da quel momento in poi abbiamo detto: vabbè, adesso abbiamo un anno di vita per far sì che questo film possa essere visto da più persone, da un pubblico maggiore. Tieni anche presente che da fine marzo il film potrà avere anche una diffusione televisiva in Rai, una versione diversa da questa. Il nostro film dura 100 minuti ed è in versione originale, sottotitolato in italiano, e con quello andiamo nelle sale, mentre la messa in onda in Rai è una versione di 50 minuti doppiata. Quindi è un film un po' diverso. Sì, sì. Sono due bei film. Ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più? Sì, potete andare sul sito www.moviemovie.it e da lì aprire i collegamenti relativamente appunto al film. Esiste un sito che è www.spoonriver.com, e in cui potete trovare il trailer, il racconto del film, e se vi capita nelle vostre città di vedere che qualche sala lo programma, andateci, perché è un film bello, è poesia, è una lunga poesia che racconta storie di uomini e di donne e di sentimenti che secondo noi sono fuori dal tempo, fuori dal luogo, e quindi che avranno una vita universale. Bene. Nene, un abbraccio e risentirci presto. Grazie Federico, un abbraccio a voi. Ciao. Nene Grignaffini, co-regista del documentario o film, o chiamiamolo come ci pare, Ritorno a Spoon River, in tour in Italia. Eccoci con Antonio Flamini, direttore della quinta edizione del Nordic Film Fest a Roma, alla Casa del Cinema, ma non solo, dal 21, da oggi, quindi fino al 24 aprile. Antonio, ben ritrovato su queste frequenze. Grazie, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, si tratta di un festival che ha una caratteristica, quella di interessarsi della penisola scandinava, giusto? Sì, è la rassegna del cinema dei paesi nordici, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Islanda, organizzata appunto dalle ambasciate dei paesi nordici in collaborazione con il Circolo Scandinavo e i Film Institute dei rispettivi paesi. Bene, una quinta edizione, quindi sta andando bene, visto che insomma dalla prima ha continuato a crescere. Sì, diciamo di sì, è stata subito accolta molto bene dal pubblico, ma anche poi soprattutto dalla stampa, dalla critica, che diciamo ha dimostrato proprio da subito il suo interesse alla manifestazione, e ha fatto un po' da amplificatore a questa rassegna, che appunto è riuscita ad arrivare alla quinta edizione e ogni anno diciamo che viene accresciuta con oltre a proiezioni interessanti anche altri eventi paralleli. Senti, in generale la filmografia europea non trova grande spazio qui da noi, però c'è sempre un'attenzione verso i film nordici che ogni anno ci regalano alcune perle. È una filmografia piuttosto vivace. È molto vivace, lo dimostra il fatto che partecipa e vince ai più importanti festival del mondo. E tra l'altro noi presentiamo in rassegna un film islandese che ha vinto l'altro anno al Festival di Cannes, la sezione Uncertain Regard. Ultimamente abbiamo fatto un'anticipazione con un film danese che è stato presentato al Festival di Berlino e ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile. Quindi è veramente molto vivace, molto interessante e di grande livello. Senti Antonio, quante sono le opere che presenterete in questa edizione? Ma noi presentiamo 14 film, 4 documentari e un corto, sì. Un totale di circa 30 ore di grande cinema nordico. Dislocato in più sedi? Diciamo che noi in realtà la manifestazione la svolgiamo all'interno della Casa del Cinema in diverse sale. Okay. E non solo proiezioni, perché poi in realtà noi già abbiamo presentato una bellissima mostra fotografica su Lee Pullman e Ingmar Bergman e faremo la mattina delle masterclass, organizziamo un convegno tra produttori nordici e produttori italiani, insomma ci sono una serie di attività intorno alle proiezioni. Senti, hai detto una trentina di ore di cinema, ci sono delle tematiche più ricorrenti? Sì, quest'anno il tema, diciamo il filo conduttore della manifestazione è l'amore nordico, sì. Articolato in tutte le sue declinazioni, per cui è abbastanza vario, interessante, invito gli spettatori a frequentare il festival per capire che cosa significa l'amore nordico. Senti, per tutte le informazioni, anzi, prima voglio chiederti anche se sono previsti anche ospiti tra gli autori. Sì, noi apriamo la manifestazione con il regista finlandese Mika Kaurismäki, con la proiezione del film The Girl King, sulla storia della regina Cristina di Svezia, un film il cui progetto abbiamo presentato 2 anni fa proprio al festival e adesso è stato realizzato. Verrà anche l'attrice protagonista Malin Buska, svedese, il produttore Martin Persson, poi ne abbiamo altri durante la manifestazione, quasi tutti i film sono introdotti o dal regista o dal produttore, insomma abbiamo circa una ventina di protagonisti del cinema nordico che ci sono venuti a trovare. Bene, e a questo punto ci lasci tutti i riferimenti internet per il programma? Sì, ricordo intanto che le proiezioni sono tutte ad ingresso libero, ovviamente fino a esaurimento posti, e il nostro sito è www.nordicfilmfestroma.com. Antonio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Crepi il lupo, ciao a te e a tutti gli ascoltatori, ci vediamo al Nordic Film Fest. Bene, Antonio Flamini, direttore della quinta edizione del Nordic Film Fest qui a Roma, la Casa del Cinema, dal 21 al 24 aprile. Eccoci, allora ti ho chiamato un po' in anticipo, Enrica Viola, regista del documentario Borsalino City, che è in tour in Italia. Enrica, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, una storia curiosa che risale a diversi anni fa, raccontacela un po', Enrica. Allora, la storia è nata perché io mi sono interessata alla storia di Borsalino, perché Borsalino appunto è il nome di un cappello che è molto noto, molto famoso, però non sapevo che fosse fabbricato a 100 chilometri da casa mia. Io abito a Torino e Alessandria è una città vicina a Torino, quindi per prossimità mi sono incuriosita e interessata a questa storia. E effettivamente è una storia che ha moltissimi piani del racconto, perché è legata a questo oggetto mitico che è il cappello borsalino, che tutti conosciamo anche attraverso le immagini cinematografiche che lo hanno reso famoso. Però in realtà è una storia che, almeno dal mio punto di vista, ha lo stesso interesse dal punto di vista sociale, storico e industriale, perché c'è una storia di una città intera, che è Alessandria, che ha lavorato per 120 anni sulla fabbricazione di questo oggetto. C'è la storia di una storia familiare, di una saga familiare che ha gestito questa azienda per 120 anni, e c'è la storia della classe operaia, dei cappellai della Borsalino, che era una categoria molto molto fiera di fare il mestiere. C'erano anche moltissime donne che lavoravano alla Borsalino ed erano addirittura sono state il primo esempio di femminilizzazione del lavoro e anche un esempio di emancipazione femminile sul lavoro. Quindi andando a ricercare ho scoperto che c'erano tantissime storie legate a Borsalino, legate all'oggetto, e moltissime immagini davvero, che c'era solo l'imbarazzo della scelta, perché oltre alle immagini addestrati del cinema, ma ci sono moltissime immagini fotografiche dell'archivio Borsalino stesso, che sono documenti straordinari. Ci sono delle affiche meravigliose, delle affiche, adesso non mi viene il nome in italiano, dei manifesti degli illustratori famosi come Dudovic, che hanno addirittura segnato un primo passo verso la pubblicità in Italia. Quindi insomma, tutto, più ricercavo e più si espandeva questa storia. Ovviamente non l'ho fatto da sola, ma sono con l'aiuto di due coautrici, Paola Rota e Erika Listredo, e abbiamo fatto questa lunga ricerca che è durata quasi 3 anni, e poi insomma in tutto la lavorazione del film è durata 4 anni. Senti, la produzione del cappello quando è cominciata materialmente? Qualche anni erano? Allora, il cappello Borsalino fu fondata, la società, l'azienda Borsalino fu fondata dal capitano d'industria Giuseppe Borsalino nel 1857, quindi prima dell'Unità d'Italia. Sì. E questa, quindi era un'epoca in cui il cappello si portava moltissimo e si è continuato a portare sempre fino agli anni 40, ecco. Sì, sì, però all'epoca addirittura c'erano i modelli di cappello che erano diversi da quelli che siamo abituati a conoscere. Cioè, il modello principale era la tuba, il cilindro, poi la bombetta, nell'epoca in cui la fabbrica è stata fondata. E tra l'altro è un modello di cappello che attraversava anche le classi sociali, i tipi di lavoro che gli uomini, soprattutto gli uomini, svolgevano. Sì, più che attraversarle le distingueva, nel senso che il cappello ha sempre dato, come dire, era considerata, come dicono i film, quasi la carta d'identità di una persona, no? Per cui il cappello, appunto, come il cilindro, era il cappello dalle persone di un certo lignaggio. I berretti baschi erano portati dalla classe più umile. Le bombette anche inizialmente erano portate da classi sociali come i finanzieri, come insomma, erano, il cappello davvero dava il segnale di chi fosse del ruolo sociale di una persona, dello stato sociale di una persona. Però a livello di iconografia il modello Borsalino ce l'aveva dal contadino al cittadino della città, insomma il cittadino. Negli anni in cui il modello Borsalino più diffuso, diciamo quello che noi conosciamo come modello Borsalino, è il modello Fedora, che è un modello, per intenderci, quello che si inizia a vedere nel cinema gangster negli anni 20, quindi sì. Il cappello con la falda in mezzo, con la tesa larga, un cappello comunque morbido, di feltro morbido. Quel cappello lì, hai ragione, effettivamente se si guarda qualunque immagine di archivio a partire dagli anni 30 fino agli anni 50, si vedono tutti che portavano quel modello. Poi chiaramente c'era chi aveva il cappello più pregiato, più fine, e quello magari fatto con materiali più grezzi, sì, però sì, era un modello diffusissimo, sì, che si è sviluppato molto dagli anni 20 fino a quando poi il cappello ha smesso di essere usato negli anni 60. Sì. Enrica, che percorso sta facendo il tuo documentario? Adesso è uscito in sala da una settimana, per cui abbiamo fatto un'anteprima ad Alessandria, dove appunto doverosa anteprima ad Alessandria, visto che tutta la storia è nata lì. E poi ha iniziato il suo tour e io sto facendo questo tappe di presentazione. Ieri ero al Cinema Messico a Milano, il film è stato visto a Torino, a Genova, a Napoli e questa sera è all'Adriano a Roma, e insomma è la tappa forse più importante, perché questa è la capitale del cinema e quindi anche questo cappello comunque ha avuto la sua importanza nel cinema, e questo film parla molto di cinema ed è adatto al pubblico anche di cinefil, che riconosceranno moltissimi estratti all'interno del film. Senti, ci sarai anche tu alla proiezione qui all'Adriano? Sì, lo presento alle 20:30 e quindi sarò felice di vedere i romani in sala a vedere questo film e spero di vedere una sala piena, insomma mi auguro, anche se mi hanno detto che l'anno è di solito fa molte presentazioni, ma magari è un cinema che ha un pubblico più commerciale, ecco, però io penso che questo film possa parlare a un pubblico ampio, che non sia soltanto un film per cinefili o per persone che amano solo il documentario, perché è un film che davvero attraversa diversi interessi e quindi può intercettare un pubblico più grande. Ecco, ad esempio mi incuriosiva questo aspetto delle operaie che avevano un regime di lavoro e di vita magari anche superiore alle altre donne in Italia, e ci racconti un po' di questa storia? Sì, le operaie della Borsalino che sono state chiamate le Borsaline, avevano la caratteristica di essere intanto il primo esempio, e questo è documentato, è veramente il primo esempio di femminilizzazione del lavoro in Italia, per cui nel 1907 erano il 70% della forza lavoro alla Borsalino. Questo voleva dire aver anche un impatto sociale sulla città molto grande, perché erano donne che arrivavano dalla campagna fuori Alessandria, quindi avevano improvvisamente anche un salario sufficiente per eventualmente spenderlo anche per loro stesse e non solo per darlo in famiglia, quindi avevano anche sviluppato, diciamo, una modalità di comportamento che veniva considerata fin troppo emancipata per la mentalità dell'epoca, però davvero furono possono essere considerate un po' le suffragette della nostra storia industriale italiana, e avevano sì un salario che rispetto alle loro colleghe magari ad altre donne lavoratrici dell'epoca erano già dei salari insomma un po' più importanti, sì. E quindi di conseguenza questo aveva anche creato un movimento di emancipazione e di autonomia rispetto alla mentalità dell'epoca, alla famiglia d'origine ad esempio. Enrica, in chiusura c'è uno spazio in rete per saperne di più sul tuo lavoro? Sì, allora c'è il sito del film, che è www.borsalinocity.it oppure .com, e poi c'è la pagina Facebook che si chiama Borsalino City, che vedo che è molto frequentata, quindi se volete informazioni in più trovate tutto online. Benissimo, allora un abbraccio e risentirci presto. Grazie a voi. Ciao Enrica. Enrica Viola, regista del documentario Borsalino City, in tour in Italia. E ritroviamo Andrea Zambelli, regista in questo caso del documentario Rino, la mia ascia di guerra, in uscita in sala il 23 aprile prossimo, cioè sabato. Andrea, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Ciao. Rino, la mia ascia di guerra, si parla di resistenza, in che termini, Andrea? Allora, vabbè, la storia che racconto nel film Rino è una storia che parte da lontano, nel senso che io ho conosciuto Rino quando avevo 5 anni, perché è venuto a abitare vicino a me, e erano questa coppia senza figli, ed era Lorino e la sua compagna che peraltro ha avuto era stata una mondina. E queste due persone sono diventate una sorta, delle sorte di nonni per me, soprattutto Rino. Io non ho mai avuto un nonno paterno, un nonno, e quindi Rino ha assunto questa figura. Da quando avevo 5 anni a quando ne avevo 15, Rino mi raccontava queste favole. Io le interpretavo come favole, in realtà erano i racconti della sua vita partigiana. Mm-hmm. E a 15 anni ho capito che non erano proprio favole, ma che erano fatti storici realmente avvenuti. Quando ho cominciato ad avere verso i 19 anni, che cominciavo comunque a affacciarmi così all'idea di fare video, Rino mi ha proposto di raccogliere le sue testimonianze, e quindi abbiamo cominciato questo lavoro, che era proprio lo facevamo più per un'idea di memoria, no? Certo. Più di trasmissione di una memoria orale, che ci rendevamo conto che si stava perdendo. Questo processo è durato dal 1994 fino al 2006 e continuavo a riprendere, più o meno lui mi raccontava sempre le stesse storie. Chiaramente in questo arco temporale lui invecchiava, io diventavo grande dietro la macchina da presa, e i formati di ripresa anche cambiavano, no? Perché eravamo proprio a cavallo della rivoluzione digitale, per cui tutta una serie anche di formati nuovi che piano piano venivano fuori e che cominciavamo a utilizzare per questa cosa. Mm-hmm. Questo materiale è rimasto nel mio archivio fino al 2011, quando così mi era venuta l'idea comunque di riprendere in mano questo soggetto. In quel momento Rino è stato colpito dal morbo di Alzheimer e improvvisamente nel giro di 3 mesi ha perso completamente la memoria, quindi mi sono ritrovato in una situazione in cui dovevo fare un film sulla memoria con una persona che la memoria l'aveva persa. Questa perdita della memoria fisica di Rino mi sembrava che per estensione raccontasse anche la perdita della memoria del corpo sociale, no? Nei confronti proprio della resistenza, e da lì è partito tutto questo processo che poi ha portato al film, cioè come raccontiamo questa storia ora. Tra l'altro martedì abbiamo mandato in onda uno spettacolo di Ascanio Celestini, di cui in archivio avevamo anche Radio Clandestina, che è basato sul libro di Alessandro Portelli, sull'eccidio e sulla strage, sull'azione di partigiana di Via Rasella, e poi sulla strage, sull'eccidio nazista delle Fosse Ardeatine. È un libro che ha segnato anche un passaggio importante rispetto alla storiografia, con la memoria orale, con l'utilizzo della memoria orale. Quindi è un po' un'operazione che hai fatto anche tu dal punto di vista cinematografico con questo racconto. Volevo chiederti, Andrea, qual è la resistenza che ha vissuto Rino? Ma allora, il gruppo di Rino era un gruppo che a me piace un casino raccontare, perché era un gruppo che non si è creato sotto una bandiera politica ben precisa o sotto una coscienza politica. Loro non erano neanche comunisti o anarchici, era semplicemente un gruppo di ragazzi di paese che peraltro aveva partecipato comunque all'arruolamento e poi alla disfatta dell'8 settembre, e quando sono tornati a casa hanno capito che del fascismo non ne potevano più. È stata una ribellione completamente istintiva, perché non è che avessero gli strumenti culturali e politici per... Sì. È stato proprio qualcosa che gli veniva dalla pancia. Insieme a questo gruppetto, che all'inizio erano in 5, hanno cominciato a fare azioni creando loro la loro piccola brigata, e la loro prima azione è stata clamorosa, perché loro praticamente decidono in 5 di assaltare una caserma dei fascisti che contava di 30 effettivi. Non avevano armi, avevano solo un pugnale, sono arrivati su 3 biciclette in 5 alla caserma. Grazie a una stratagemma sono riusciti a penetrare nella caserma, sono riusciti a portare via tutti i fucili, la cassaforte, sono scappati sulla bici con la cassaforte sulla canna della bici. Insomma, azioni rocambolesche, geniali, mi viene in mente, non so, geniali dilettanti in selvaggia parata, no? Citando i CSI. Sì, era proprio questo clima qua, ragazzi di paese che decidono spontaneamente di combattere il fascismo. Questa cosa mi piace molto da raccontare, perché proprio loro avevano tutti 20 anni, quindi c'era una sorta anche di autogestione del gruppo. Rino era il capo brigata solo perché aveva un anno più degli altri e conosceva meglio delle cose militari, perché aveva fatto il militare. Però ecco, si trattava proprio di una formazione, diciamo così, spontanea, okay, che si è formata proprio attraverso la lotta partigiana, e questa mi sembra la caratteristica, diciamo così, più saliente della sua esperienza partigiana. E questo titolo, La mia ascia di guerra? Questo titolo è molto importante per me, perché allora, quando abbiamo cercato di codificare il racconto di questa storia, no, mi è venuto in mente Asce di guerra dei Wu Ming, perché è stato un libro che secondo me è stato fondamentale anche per tutta questa teoria della narrazione di fine anni 90, no, che le storie sono asce di guerra da disseppellire, e mi aveva colpito molto, e lì stavo pensando, è questo che mi piacerebbe fare nella vita, disseppellire delle storie per poterle raccontare. mi è sembrato anche giusto quindi omaggiare, diciamo così, questo libro, questa opera di Wuming attraverso il titolo Rino è la mia ascia di guerra, è la storia che io disseppellisco e che cerco di portare alle altre persone che non hanno avuto la fortuna di conoscere Rino personalmente. A proposito di perdita di memoria, volevo chiederti anche Rino, rispetto al dopoguerra e a come si è evoluta la società italiana, qual era il suo pensiero a questo proposito? Ma diciamo che Rino nel 53 è stato costretto a emigrare perché qua non trovava più lavoro, quindi la sua seconda parte della sua vita si snoda in una storia politica che è l'emigrazione degli italiani nella Svizzera, nella provincia di Bergamo, tantissimi bergamaschi andavano a lavorare su e c'erano delle strutture organizzate dal Partito Socialista e dal Partito Comunista che erano le colonie libere, che si occupava proprio di, diciamo così, all'inizio proprio dell'accoglienza dei migranti, dell'alfabetizzazione dei migranti, facevano corsi di cultura, insomma si occupavano di inserire i migranti lavoratori italiani dentro il tessuto sociale svizzero, chiaramente in un'ottica comunista. Lui partecipa a questa esperienza fino a quando viene espulso per attività clandestina dalla Svizzera e è costretto a ritornare a Bergamo. In Svizzera conosce Lina, che è la sua compagna, che aveva avuto una storia di lotte bracciantato femminile attraverso proprio l'esperienza della Monda nei campi. E quando tornano a Bergamo e lì vabbè si dà un attimo una calmata dopo che era stato anche espulso dalla Svizzera, lì ricomincia a lavorare in maniera un pochino più tranquilla, però sempre tenendo attenzione a quello che stava succedendo sul territorio rispetto ai giovani. E qui ho cercato di fare questo link anche nel film, no? Capire quante delle sue scelte hanno influenzato poi le mie, anche in termini di storie che poi ho deciso di raccontare. Senti Andrea, allora, per l'uscita in sala il 23 aprile è il giorno... 23 aprile a Bergamo, all'interno della rassegna Al cuore dei conflitti, poi il 24 saremo a Bologna, al VAG, al 25 a Perugia. E il film si può trovare è distribuito dalla Bottanta Film e da Distribuzioni dal Basso e si può trovare sotto forma di on demand online e di DVD sul sito www.distribuzionidalbasso.com. Perfetto. Allora, detto, qui crediamo molto di distribuzione, secondo me si inserisce anche in un panorama, nel panorama della cultura del cinema italiano, in un settore che è stato spesso dimenticato, comunque è secondo me il settore chiave adesso, perché comunque abbiamo capito che attraverso anche il digitale, attraverso le nuove tecnologie, siamo in grado di produrre i nostri film e il nodo rimane sempre quello come distribuirli. Quindi ho deciso di fare questo, di distribuire il film insieme a loro, perché mi sono trovato totalmente d'accordo nella loro linea e nel loro tentativo comunque di dire qualcosa di nuovo per quanto riguarda la distribuzione in Italia. Non a caso anche la radio ha scelto come campagna di crowdfunding Produzioni dal Basso, quindi insomma che sono due siti, Distribuzioni dal Basso sono i due settori cinematografici dove insomma riusciamo anche a operare, dove riusciamo anche a dire qualcosa di nostro. Sì. E quindi sono progetti che secondo me vanno sostenuti e che spero rappresentino il futuro di quello che si può fare in Italia col cinema. Andrea, come sempre è stato un piacere e allora ricordiamo anche Rino, la mia ascia di guerra, i riferimenti ce li hai lasciati, un abbraccio e alla prossima. Ok, grazie a tutti e buona giornata. Buona resistenza anche. ciao Andrea. Andrea Zambelli, regista del documentario Rino, la mia ascia di guerra, in uscita in sala da sabato 23 aprile. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Patrizia Salvatori del Cine Club Alphaville per parlarci della rassegna Resistenze da ieri fino al 25 aprile. Patrizia, ben ritrovata. Salve, buon pomeriggio a te Federico, buon pomeriggio a tutti voi, grazie. Sì, c'è questa nuova rassegna che come ogni anno l'Alphaville dedica alla Resistenza, ma questo è un anno particolare perché appunto come dicevi giustamente te, il titolo della rassegna è Resistenze, ma la R è tra due parentesi e poi appunto esistenze, fa come una parte a sé insieme con la R, e insieme da soli e tutte e due contemporaneamente. Il focus infatti della rassegna è dedicato proprio alla resistenza, stavolta non propriamente la resistenza dei film che Alfa, insomma, che compie quest'anno 15 anni, da tempo ha sempre affrontato, e quindi i lungometraggi, le pellicole che tutti noi conosciamo e che sempre ci fa piacere e ci fa soprattutto memoria, ecco, e siamo costretti in qualche modo tra virgolette a rivedere per non dimenticare. Questa volta il focus di resistenza è legato appunto ad esistenze, agli esseri umani, a uomini e donne che attraverso quel periodo, che è uno dei periodi più incredibili, più assurdi se vogliamo da certi punti di vista e positivi per la resistenza da altri, che hanno cambiato la vita personale, quindi la vita intima di uomini e donne, di protagonisti al tempo della resistenza. Quindi sono pellicole che in qualche modo affrontano la resistenza anche come scenario, non soltanto come soggetto portante del film, attraverso il quale però non si vedono in filigrana, ma si vedono proprio da protagoniste i cambiamenti che la resistenza e che questo periodo ha portato, questo periodo della storia italiana e non soltanto italiana, ha portato nella vita di intima, personale, di molti milioni di uomini e donne. Qui naturalmente la selezione ovviamente piccina, perché sono soltanto 5 i giorni che abbiamo dedicato alla resistenza, però ieri per esempio abbiamo fatto vedere L'estate violenta di Valerio Zurrini, che è un film dove la resistenza c'è e cambia la vita dei protagonisti, cioè Gianluca Trintignano e Leonora Rossi d'Ago, in una storia che è anche una grandissima storia d'amore. Stasera c'è Il cielo cade dei fratelli Frazzi, dove appunto a raccontare la storia in realtà è la Lorenza Mazzetti, la nostra Lorenza Mazzetti del free cinema inglese, che appunto nel 1944 ha vissuto un'esperienza drammatica con la sorella all'interno di una villa che era per loro il giardino delle delizie e che poi è diventato il giardino degli orrori appunto con l'avvento del nazismo. La stessa storia, nel senso la stessa storia di scenario resistente, è quella che in qualche modo avvolge Il conformista di Bernardo Bertolucci, film bellissimo nella storia del cinema italiano, in cui sempre Gianluca Trintignani, che evidentemente ha un volto assolutamente adatto all'introspezione, qui appunto si trova a dover, penso, no, conosciamo tutti la storia, il plot di questo incredibile film tratto dal romanzo di Alberto Moravia, si trova a dover uccidere il suo professore di filosofia dichiaratamente antifascista, ma la vita della resistenza, la vita di questo periodo storico cambia le carte in tavola, ed anche qui ci sono i temi appunto degli uomini e delle donne, che sono anche per esempio in questo caso i temi di Bertolucci: l'uomo, la donna, l'amore, l'omosessualità, la guerra, la politica. Sabato abbiamo Suite francese del romanzo della Nevinowski, ed anche qui naturalmente storia di passione, ma non storia calligrafica, una storia sempre ambientata nel periodo resistente, dove appunto esiste una passione incontrollabile che non si dovrebbe dover vivere naturalmente, considerati i protagonisti della passione. E quindi naturalmente anche qui una resistenza, un periodo storico che ha cambiato i destini degli esseri umani, anche nelle loro vite quotidiane, in bene e in male, e comunque in qualche modo dando una lezione o proseguendo, diciamo, un percorso. Prendevi è quello che succederà invece domenica, che è quello film che uscì nello stesso anno della Vita bella di Roberto Benigni, il famoso film dello scherzo del treno, che non è lo scherzo ma è una mascherata a fin di vita, diremmo così noi, un film che lasciò un segno importante nella storia del cinema di quegli anni, stiamo parlando della fine degli anni 90, un film che fa anche sorridere, così come faceva sorridere La vita è bella, ma che fa riflettere molto e soprattutto ha un finale da interpretare, oddio, forse nemmeno da interpretare, ma insomma un finale particolare. Infine noi chiuderemo lunedì, che è il 25 aprile, con un film francese che è Cognome e nome La Comme le Sien di Louis Malle, un incredibile lungometraggio dedicato ad un ragazzo che non hanno, che la resistenza non ha voluto e che si è allea quindi con la Gestapo, però a quel punto puntini. Anche qui una storia di vita, che è una storia di un ragazzo che probabilmente se fosse nato poco prima o poco dopo determinati fatti avrebbe vissuto in maniera diversa la sua infanzia, la sua giovinezza e la sua età adulta. storie appunto che riguardano sempre vite condizionatissime, non solo dal periodo per quanto riguarda le viventi, ma anche proprio dalla vita e la morte. Questo è uno dei casi in cui l'ISMAL mette in evidenza appunto come si può morire o si può vivere in un determinato periodo storico soltanto perché si è stati in quel determinato periodo storico e non si è potuto avere nessuna alternativa. Questo ragazzo appunto del protagonista del film ce lo dimostra. E infine chiudiamo però con un documentario che è il documentario della René Notte e Nebbia, che è un documentario crudo, doloroso sull'olocausto, che veramente ci piacerebbe forse non aver mai visto, ma che invece è il documentario che ci aiuta a non dimenticare, quindi forse proprio il colpo d'ala di questa rassegna, che in qualche modo ci fa vedere le resistenze, quindi le resistenze durante questo periodo buio della storia appunto del mondo. Però in questo fatto, in quest'ultima, diciamo, quest'ultimo colpo d'ala è un colpo d'ala veramente crudele da un certo punto di vista, un documentario di 30 minuti, ma che ci permetterà appunto di non dimenticare, di andare verso altri anni insomma di riflessione. Patrizia, e chiudiamo con un importante anniversario, perché sono 15 anni dell'Alphaville, che per l'occasione ha organizzato qualcosa. Oh, grazie Federico di darmi l'opportunità di poter ricordare a tutti che l'8 maggio 2016, quindi fra non moltissimo, l'Alphaville, che non so se per fortuna o no è storica o è vecchiarda, non so dire in questo caso, in questo caso potremmo dire storico, cineclub di Roma capitale, della nostra città, che in qualche modo compiendo 15 anni si fa avanti nell'età adulta, non con poche difficoltà naturalmente, ma che ha voluto, vuole festeggiare questi suoi 15 anni con un concorso letterario che si chiama 15 anni Alfa, anzi la mail a cui inviare i raccontini, i piccoli racconti, è 15 anni, 15 al numero, annialfa@gmail.com, poi comunque basta visitare il sito per trovare questo indirizzo. È un concorso, un piccolo concorso del cuore per questa Alfa, questo piccolo tesoro culturale della città, speriamo a lungo, e tutti possono inviare, chi ha partecipato all'Alfa, chi segue l'Alfa, chi ci vuole venire, chi la immagina, un racconto di 15 righe, una per ogni anno del Cineclub Alphaville, in modo che possano poi essere visionati da una commissione che io presiederò insieme con altri tre appunto docenti di sociologia, di lettere e via discorrendo, il racconto che la commissione riterrà più significativo per i 15 anni del Cineclub Alphaville vincerà una targa ovviamente e l'abbonamento a tutto l'anno della programmazione del Cineclub Alphaville, compresa appunto l'estate, dal 8 maggio 2016 all'8 maggio 2017. Quindi scrivete, Federico, anche tu. Benissimo. Patrizia, io ti abbraccio, ci si vede lì. D'accordo, un abbraccio grande a tutti voi e buon proseguimento. Grazie. Patrizia Salvatori dell'Alphaville Cine Club sulla rassegna Resistenze con la R tra parentesi, da ieri fino al lunedì 25 aprile. In linea abbiamo Chiara Boffelli di Lab 80 per parlare con lei della settima edizione di Al Cuore dei Conflitti a Bergamo, Brescia e Roma dal 23 al 28 aprile. Abbiamo avuto già un'anticipazione perché Andrea Zambelli ci ha detto che il suo Rino, la mia ascia di guerra, parteciperà. Chiara, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, ciao a tutti. Settima edizione Al Cuore dei Conflitti, qual è il... l'argomento, qual è il tema di questa rassegna? Quest'anno, come dicevi tu, settima edizione, ci concentreremo in particolar modo sui 40 anni della dittatura argentina, con una serie di eventi speciali, perché avremo l'occasione di avere in Italia come ospite straordinario appunto di questa rassegna Pablo Diaz, che è l'unico testimone sopravvissuto delle stragi di Videla in quegli anni, in particolar modo appunto della quella che è stata poi denominata la notte delle matite, la notte dei lapis, che fu appunto una vicenda molto tragica e poi molto conosciuta di quei tempi. Furono uccisi tutto un gruppo di torturati e poi uccisi, ad eccezione appunto di Pablo Diaz e un'altra persona, una serie di studenti durante appunto l'inizio della dittatura che poi colpì l'Argentina per diversi anni. Pablo Diaz, che è poi stato il testimone che ha potuto raccontare, quelle, l'unico appunto che ha testimoniato su quello che poi successe nelle, in quelle carceri, quindi le torture, gli omicidi, le violenze, ma anche il sequestro delle persone e dei bambini, e quindi le sue testimonianze furono alla base, sono state alla base delle, dei tanti processi poi ai desaparecidos e anche ai figli appunto dei desaparecidos, che ancora oggi vengono reclamati dalle mamme e dalle nonne di Plaza de Mayo, come tutti ben sanno. Chiara, quante sono le opere presentate in questa settima edizione? Presentiamo in questa rassegna cinematografica 5 film, ripresentiamo quindi un film del 1988, La notte delle matite spezzate, proprio per la presenza di Pablo Diaz in Italia, un film che molti conoscono ma che sicuramente parte del pubblico, soprattutto il più giovane, non lo conosce, perché è un film che a un certo punto è scomparso, non esiste più né in DVD né in altro modo, per cui sicuramente merita di essere rivisto. Come già hai anticipato tu, presentiamo il documentario di Andrea Zambelli, Rino, la mia ascia di guerra, che è questo diario, racconto appunto del regista Andrea Zambelli con questo partigiano bergamasco, il loro rapporto, chiaramente quindi una riflessione sull'attualizzazione della memoria storica, della resistenza e dei valori antifascisti. Sicuramente degno di nota e di attenzione sono anche altri 3 film che non hanno una distribuzione italiana e per questo motivo abbiamo deciso di inserirli nella rassegna per dar loro chiaramente visibilità e possibilità di essere conosciuti e visti dal pubblico. Mille Ciel, Mille Terre, che è passato a Torino, al Torino Film Festival, nella sezione Torino Film Lab di Clément Cogitore. È un film che racconta il rapporto tra questi soldati afghani stanziati in un posto molto impervio, molto duro, a fianco di un villaggio, e quindi il loro rapporto con i locali, e si tinge a un certo punto la narrazione di giallo. A un certo punto alcuni di questi soldati iniziano a sparire e chiaramente la narrazione prosegue e ci si chiede che cosa stia accadendo. Un film sicuramente molto raffinato, molto ben fatto, una fotografia straordinaria, una narrazione molto molto interessante, una sceneggiatura sicuramente molto molto ben scritta e molto interessante proprio per quanto ci fa vedere del rapporto con i locali. Potete immaginarvi come sia la situazione. E poi Jonas Carpignano con Mediterraneo, un film sicuramente di estrema attualità, ha girato tantissimi festival anche questo film, ha partecipato anche al premio Lux e ci racconta dell'odissea di due migranti che dal Burkina Faso arrivano poi in Italia e incrociano Rosarno proprio nel periodo in cui ci sono state le lotte e la resistenza a Rosarno. E per finire il documentario che racconta dell'esperienza della RAF tedesca, uno degli unici documentari realizzati sulla RAF che attraverso il quale arriviamo dei documenti, delle interviste dei materiali inediti, originali e che come dire, direttamente vanno proprio a raccontare quell'esperienza in modo estremamente diretto e vicino, e quindi un film sicuramente merita di essere visto e proposto. Chiara, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sul programma? Troviamo tutto sul sito www.alcuoredeiconflitti.it e un'ultima precisazione, perché quest'anno la rassegna arriverà anche a Roma avremo un appuntamento il 26 pomeriggio alla Casa delle Letterature, dove non presenteremo il film ma bensì il libro La Notte dei Lapis, alla presenza di Pablo Diaz, per cui anche per gli ascoltatori romani l'occasione per avvicinarsi a questa proposta e avere la possibilità di incontrare Pablo Diaz a Roma alle 16:30 alla Casa delle Letterature. Chiara, un abbraccio e alla prossima. A presto. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Chiara Boffelli di Lab 80 sulla 7ª edizione di Al Cuore dei Conflitti, Bergamo, Brescia e Roma dal 23 al 28 aprile. Eccoci con Ippolita Nigris Cosattini per parlare della 18ª edizione del Far East Film Festival a Udine dal 22 al 30 aprile. Diventa maggiorenne quest'anno, giusto? Sì, ciao Federico, ciao a tutti. E infatti quest'anno è molto un anno importante, perché ci vorrà la patente del festival quest'anno. Un anno importante, 18 anni, la maggiore età, ed effettivamente abbiamo un'edizione molto ricca. Nel senso che effettivamente il festival in questi 18 anni è cresciuto molto, e quest'anno abbiamo il piacere di inaugurare addirittura delle nuove sezioni, dei nuovi eventi, diciamo, nel festival, molto importanti, su cui lavoriamo da anni e che finalmente in questo 18esimo compleanno si avverano. E per esempio è il caso del Focus Asia, un appuntamento di 3 giorni, intorno alla fine, i giorni finali del festival dal 27 al 29, dedicati ai professionisti del settore, quindi con proiezioni e incontri specifici, appunto fatti apposta per buyers, distributori, produttori, che si incontreranno, vedranno delle proiezioni speciali per loro di lavori in produzione o di lavori appena prodotti, e quindi diciamo che è un inizio di sezione market, sezione industry, che appunto su cui lavoriamo da anni, perché è un elemento importante meno per gli spettatori ma più per gli addetti del settore, un elemento molto importante per aiutare questo collegamento, questo ponte tra Asia e Occidente, che è appunto la missione del festival. Oh, festival che è uno dei più importanti, che si occupa di cinematografia dell'Estremo Oriente. Quante sono le opere che presenterete quest'anno? Guarda, quest'anno abbiamo 77 titoli, 50 in concorso, addirittura 6 anteprime mondiali, che insomma è sempre un goal importante per un festival, e iniziamo alla grande domani con 2 film molto importanti, 2 grosse produzioni. Una è targata appunto Sud Corea, si intitola The Tiger, è un colossal con effetti speciali straordinari, firmato dal regista Park Ung-Jung, che sarà appunto presente anche in sala per rappresentare la sua opera. E chiuderemo l'opening night domani con il secondo film della serata, con un'opera invece targata Hong Kong, prodotta da Johnny To, amico carissimo del Far East Film Festival, che sarà a Udine anche lui a festeggiare i 20 anni della sua Milky Way, casa di produzione di Hong Kong, casa leader tra l'altro a Hong Kong, e verrà a festeggiare con noi questi 20 anni, quindi lui ne fa 20, noi ne facciamo 18, insomma, ecco, siamo pronti a un fidanzamento, diciamo. Tra l'altro, carissimo Johnny To è uno dei primissimi ospiti che abbiamo avuto modo di avere qui a Udine ancora nel 99, quando la prima edizione era dedicata in particolare al cinema di Hong Kong, e lui è stato uno dei primissimi ospiti qui a Udine. E poi insomma si prosegue con tantissimi eventi, con tantissime cose. Abbiamo, appunto, anche guardando diciamo al passato, abbiamo quattro restauri di quattro capolavori di Bruce Lee che appunto mostreremo qui a Udine, restaurati dal laboratorio L'Immagine Ritrovata di Bologna. Poi avremo una retrospettiva dedicata alla fantascienza giapponese degli anni 70-80, diciamo, quindi sono una decina di titoli che presenteremo di produzioni di questi anni di fantascienza. Grande rappresentante sarà il regista Obayashi Nobuhiko, che ne firma almeno 3 o 4 di questi 10 che presentiamo, quindi un grandissimo regista del genere, famosissimo in Giappone, che avremo modo di ospitare. Chiuderemo poi alla fine il 30 aprile con un ospite d'eccezione, il grandissimo Sammo Hung, che appunto tutti gli amatori e gli esperti di arti marziali sicuramente conosceranno, perché appunto è un grandissimo, a parte attore, ha collaborato appunto con Bruce Lee, con Jet Li, con Jackie Chan, firmando anche le coreografie dei combattimenti più belli dei film di questi grandi attori, che hanno comunque portato al grande pubblico la filosofia e l'arte appunto della disciplina delle arti marziali. E poi, a partire appunto da domani sera fino a sabato 30, tutti i grandi blockbuster delle 10 cinematografie che presentiamo, quindi da Hong Kong alla Cina, Taiwan, Giappone, Sud Corea, Malesia, Indonesia, Filippine, insomma Vietnam, tutti questi paesi che andremo a indagare in questi 9 giorni di rassegna cinematografica, presentando quelli che sono proprio i blockbuster, quindi i film che hanno sbancato i botteghini nel loro paese d'origine, perché appunto la mission del festival è far vedere che cosa funziona lì, che cosa vanno a vedere gli asiatici, che cosa vanno a vedere maggiormente. Quindi insomma diciamo che si va dal cinema commerciale, quindi con grandi produzioni anche economicamente molto impegnative, se pensiamo anche al Giappone, alla Cina, a Hong Kong, comunque sono produzioni importanti, anche la Corea del Sud, dove questa kermesse diciamo trovano spazio anche ovviamente delle opere più autoriali, che insomma che trovano un po' un compromesso tra un cinema più popolare, diciamo fra virgolette, e quello più autoriale, come per esempio presenteremo un titolo molto atteso che è Creepy, del regista giapponese Kurosawa Kiyoshi, mercoledì 27. Kurosawa, appunto, Kiyoshi è già conosciuto fuori perché ha vinto molti premi anche fuori dal Giappone, e ci presenta adesso quest'anno questo psycho thriller molto atteso, perché appunto un genere che lui diciamo non mastica normalmente, quindi c'è grande curiosità intorno a questo titolo. Avremo anche un altro regista molto atteso, Nakamura Yoshihira, con il suo Dei Nere, sempre uno psycho horror, anche qui targato Giappone, e molti altri titoli importanti, insomma, dalla Cina, dalla Sud Corea, grandi film, insomma, che ci faranno vedere che cosa, com'è il trend dall'altra parte del mondo, che cosa piace dall'altra parte del mondo, cosa vanno a vedere i nostri compagni di là dall'emisfero, ecco, diciamo. Ecco, a proposito di trend, in chiusura così una rapidamente, qual è la, secondo il tuo modo di vedere, la cinematografia da questo punto di vista più prolifica in questo momento in Estremo Oriente? Ma guarda, sicuramente la Cina ha un'industria fortissima, okay. Un'industria che va a pari passo, se non addirittura in questi ultimi anni ci sono stati degli anni in cui economicamente ha addirittura battuto l'industria americana. Quindi la Cina, che adesso tra l'altro si unisce anche a Hong Kong, quindi abbiamo molto più produzioni Cina-Hong Kong per una loro organizzazione appunto politica degli ultimi anni, è sicuramente una una cinematografia fortissima, con produzioni milionarie proprio, veramente al pari, se non addirittura di più rispetto alle produzioni di Hollywood. E comunque diciamo che anche il Giappone segue sicuramente questo trend, e la Corea del Sud, che comunque presenta titoli, appunto film, produzioni proprio molto costose, molto ricercate, molto formalmente, molto, molto elaborate, anche perché loro hanno appunto la tecnologia anche dalla loro parte, hanno accesso a grandi mezzi tecnologici, e quindi si vedono i risultati assolutamente nelle loro grandi produzioni. Comunque diciamo che la Cina sicuramente negli ultimi anni ha fatto un balzo incredibile, veramente incredibile. Ippolita, in chiusura, tutti i riferimenti per saperne di più sul web. Guarda, sul web potete seguire la nostra pagina di Facebook, che è già seguitissima ed è super aggiornata con tutte le news, le curiosità dell'ultimo minuto, che è appunto Udine Far East Film Festival su Facebook, e per tutte le informazioni più appunto logistiche, numeri di telefono, biglietti, ingressi, orari, calendari e quant'altro, rimando tutti gli ascoltatori al sito fareastfilm.com, dove si trova tutte le informazioni necessarie per chiunque voglia venire a seguirci, anche appunto informazioni rispetto a dove andare a dormire, dove mangiare, come muoversi nella città di Udine. Un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille anche a te e a tutti voi. Ciao Ippolita. Ciao. Ippolita Nigris Cosattini del 18° Far East Film Festival a Udine dal 22 al 30 aprile. Dovremmo avere un ultimo collegamento. Eccoci con Gianluca Deserio, con Massimiliano, registi del documentario Ricordi del Fiume, in uscita in sala oggi giovedì 21 aprile. Gianluca, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, Ricordi del Fiume nei pressi di Torino, che cosa si racconta? I Ricordi del Fiume è un'immersione in un luogo che esisteva fino a qualche mese fa, che si chiamava il Pla, ed era una delle più grandi baraccopoli d'Europa, ed è il racconto degli ultimi mesi di vita di questo luogo, e soprattutto delle famiglie che ci abitavano, e in seguito a uno sbaraccamento e a uno trasferimento delle famiglie in situazioni diverse, diciamo. Noi abbiamo osservato e abbiamo vissuto con loro per quasi un anno e mezzo, e seguendone i destini disparati e le vicende in quest'ultimo anno e mezzo di vita di questo luogo. Senti, un anno e mezzo in cui voi avevate già in mente precisamente l'idea di realizzarne un documentario. Sì, esatto, noi l'idea di realizzare questo film è venuta proprio quando abbiamo saputo che c'era questo progetto del comune di Torino, della prefettura, di appunto di graduale sgombero del campo. Quando abbiamo saputo questo ci siamo guardati negli occhi, mio fratello, abbiamo detto è il momento di entrare nel Platz e in qualche modo trattenerne la memoria o le memorie che lo hanno attraversato, perché era appunto un luogo di vita sconosciuto ai più, che da lì a poco sarebbe scomparso. Mm-hmm. Senti, la domanda più urgente è quella sulla sistemazione che hanno trovato poi queste persone successivamente allo sgombero. Sì, diciamo che il progetto ha interessato una parte, cioè soltanto una parte degli abitanti del Platz sono stati beneficiari del progetto, e tra questi alcuni hanno avuto delle case, diciamo, cosiddette normali, e altri sono stati mandati in Romania e altri ancora lasciati più a se stessi, e molti di questi hanno ricostruito delle baracche non lontano dal palazzo, in altri posti della città. Senti, dal punto di vista del rapporto col territorio, intendi degli abitanti del palazzo? Sì. O il nostro? Sì, no. Chiaramente diciamo che il rapporto col territorio è stato sempre un rapporto molto conflittuale, no? Com'è del resto in tutte quelle situazioni in cui non si conosce il proprio vicino di casa. Il Platz sorgeva a praticamente 300 metri da casa nostra. Noi lo attraversavamo, lo costeggiavamo tutti i giorni e ci chiedevamo sempre, per tanti anni, perché è esistito per circa 15 anni a Torino, questo posto lungo gli argini del fiume Stura, ci siamo sempre chiesti tutte le volte che passavamo di là, ogni giorno, chi abitasse questo luogo, no? Ogni tanto vedevamo spuntare dalla boscaglia che separava il Platz, la baraccopoli dalla strada, ci chiedevamo sempre, cioè, ci vedevamo spuntare queste persone con materassi, elettrodomestici, carretti, con vari immondizia, no? Che loro poi, dopo abbiamo scoperto, riciclavano e poi andavano a vendere al mercato. E questa curiosità ci ha spinti a tirarne fuori questi volti, farli vedere, non solo a noi, farli quindi conoscere, che come sappiamo conoscere vuol dire anche non temere, no? Cioè la conoscenza, questo ponte il cinema permette di creare, può essere a nostro avviso molto, molto potente, mm-hmm. E può veramente superare anche tutta una serie di pregiudizi che ci sono sugli invisibili delle nostre città. Un altro problema evidente nelle riprese che avete effettuato è quello della successiva eventuale bonifica di un terreno che si era sulle rive di un fiume, insomma accumulato rifiuti, finendo per l'essere una discarica a cielo aperto. Sì, esatto. Adesso, tra l'altro, ci hanno fatto una pista ciclabile, no? lungo il margine della strada del lungo Stura Lazio. Però subito al di là di questa staccionata, questo cancello, diciamo, di questa staccionata che hanno costruito, si intravedono ancora benissimo tutti i resti della baraccopoli, e di fatto, come dicevi tu, è un immondiziario a cielo aperto, una serie di detriti. Noi quello che abbiamo fatto è stato un po' una sorta di lavoro quasi archeologico, no? Cioè di andare a scavare in questi detriti e recuperarne i frammenti, le storie, le memorie anche del luogo. C'è da dire che adesso alla città di Torino spetta un compito anche di ambientale molto importante, perché quello è un luogo che non può essere lasciato così. Mm-hmm. Diciamo che io non so a livello proprio di costi e di budget quanto potrebbe costare un intervento del genere. Mm-hmm. Certo è frutto di una politica sbagliata di anni e anni e anni di, diciamo, di chiusura degli occhi, perché sì, poi sì. A parte l'immondizia che è molto importante come problema, però il problema è lì che per 15 anni hanno vissuto delle persone. Certo. No? Allora, l'aspetto più evidente purtroppo è sempre l'aspetto visivo, no? Cioè quello che ci salta agli occhi per esempio adesso. Ma poi dietro questa superficie uno deve immaginarsi delle storie, dei volti. Ancora oggi stento a credere che queste persone abbiano potuto abitare in questo luogo per così tanto tempo. Sì, eppure brulicava una vita lì dentro, ecco. Sì. Una vita fatta di, come tutte le vite, di sogni, di adolescenze, di morti, nascite, preghiere, dialoghi. Ecco. È quello che un po' abbiamo voluto fare nel nostro film. Uh-huh. Gianluca, da oggi nelle sale, come sarà l'uscita? L'uscita sarà abbastanza capillare, abbiamo cercato, grazie anche alla produzione del film, che in questo caso è anche la distribuzione, cioè la Sarras Pictures, abbiamo cercato di contattare tutta una serie di sale in Italia sensibili a un certo tipo di cinema, e siamo riusciti per adesso a mettere su un programma abbastanza fitto. Oggi esce nelle sale a Torino alle 20:30 al Cinema Massimo, ci saremo anche noi a presentare il film, e rimane per una settimana. A Milano sarà il Palestrina, per adesso due serate, il 26 e 27, a Roma all'Apollo 11 da stasera, domani ci saremo anche noi a presentare il film a Roma. Esatto. E poi a Genova, ci sarà in Puglia, Lecce, a Messina, a Cagliari, Firenze, insomma un giro lo sta facendo, e Catania, e si stanno aggiungendo giorno dopo giorno delle sale. Senti, c'è un sito internet, una pagina Facebook? Sì, allora c'è la pagina Facebook, I Ricordi del Fiume, il sito internet è il sito della produzione, lasterlastpictures.com, e c'è anche un sito internet che se non sbaglio è iricordidelfiume.lasterlastpictures.com. Benissimo, allora un abbraccio e a risentirci presto, Gianluca. Grazie mille, un abbraccio a voi e andate al cinema. A presto, ciao. Gianluca Deserio, coregista con Massimiliano del documentario I ricordi del fiume, in uscita in sala oggi giovedì 21 aprile, e con lui terminiamo l'appuntamento settimanale con Visionari, che torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15.